questo, se si può fare la modifica, togliere questa 6 punti e mettere quella 4 punti, si potrebbe fare, sì. Sicuramente c'è da eliminare il down e up del microfono, che sono i due, mi pare, giallo e rosso, o il giallo e il verde. Si può fare comunque, si può fare, secondo la cortese si elimina il down e up, che non ti ne fai nulla, avanti e indietro al microfono e basta. E si prendono i quattro fili, tre più la massa necessaria per fare la ricezione e trasmissione. Certo, si può fare. E allora faremo così, tanto costerà poco il pezzo da poterlo sostituire, costerà una cazzata. Su la 4, una cazzata ci costerà 2 euro. Poi io ero per lì, intanto me ne servono anche a me 2, perché ne ho 2 le radio così, io le voglio eliminare, capito? Le voglio eliminare proprio. Va bene, e poi con calma, non ci vediamo tu. Non manda come ti arrivi a dormire, non lo riesco a lamentare. Se mi sono per la gira, non mi trovo già ce ne va a fare. Con la radio, altro di mio io. Vieni in Europa, ma te la posso. La giornata è stata tutta all'inferno. Oggi mi sono dedicato solo a quei 2 microfoni, anni 60, perché lasciarli così mi si girano le palle. Nel frattempo già l'ho messo a posto, te l'ho fatto sentire, manca la ventolina del 4.30 da lubrificare e basta. E poi devo mandare il 140 a Carlo appena rientra dalle ferie, perché ho avviato la sua vacanza. E a posto me lo faccio allineare, che c'ha 2 bande fuori, tutte 2 bande, sia i 10 metri che gli 80 metri. Non commutare, quindi se non dovrei la sostituire me li faccio mettere a posto, lo diciamo anche quello. Non problema, non problema. Già va bene, va bene. Noi piano piano metto a parte i soldi, noi cerchiamo di comprare un apparato molto molto più serio, ci affitto molto molto più serio, perché nemmeno si può fare un discorso seriamente su altre bande, non ci stanno problemi. Sì, la sapere una cosa, lascio proprio dietro che lo faccio legnare, io sono un doppio 140. Faccio legnare bene, lo tengo sotto controllo e poi già si vedrà, si vedrà. Si vedrà. Ora qui siamo a travagliare. Ti è accumulato in un'inverno, mentre la pomicola, se no, oia, oia. Lei è servito, Tony. Purtroppo, nel divertimento una cosa, un lavoro è molto importante. Non lo serve, bisogna accumulare, accumulare, accumulare, a raccumulare un po' di soldi, a accumulare tutto quello che viene, bisogna fare. Anche se si è molte volte stanchi, stressati, però bisogna lasciare, perché si mangia ogni giorno, i limiti ce ne sono, e compagnia bello, piano piano. Il divertimento è bello, però quello che interessa di più è niente, lavorare, perché quel poco che c'è bisogna approfittarne, e così. Poi le madri già si possono prendere sempre, non c'è problema, K. Nada benemera. Sarei su proprio a me radio, non mi hanno mai spaventato il radio, l'importante è che si vada avanti, no, uiaia, io ho brutto pezzo, per carità, ne stavo parlando oggi con la, quando mi ha chiamato quel mio collega, dice, niente, si è appunto il suo assieme di vista, no, dice, allora, no. lo dico io, da fine anno ci sono nuovamente trasferimenti di vista, e lasciare qua, purtroppo non mi ti mandi neanche agli addosso, a voi, vediamo, era un casino, se ne facciano girare la gente da nord a sud, da sud a nord. Stiamo per me, perché non lascio la posizione di stare in zona, lascio anche la sua. Non ci sarebbe stato dopo questo casino di trasferimenti e compagnia bella. Quelli che sono in casa lascia stare a casa, cosa stai lì a trasferire, a fare, poi mettere in ponte il capo, buttare Eva. Così è, porca miseria. Mi ha dato già ciambelli, non sono mai contento, la gente sta bene, il culo è triste purtroppo. E così è, va bene. Qua io ho una squadra mia, ne ho quattro, che ne ho due di Romana, uno di Pieci e uno di Giave. Quindi ogni mattina sono 72 km se va a venire a trovare, e 72 andrà, capito? Perché scendono con la macchina nuova, ma gratis. Adesso sono riuscito da poco a farle dare un incentivo di benzina, invece di darle la tarifaci gli hanno dato 20 centesimi a chilometro. Ma non è roba, capito? Vengono da lì tutte le mattine, capite? E invece ce ne sono 5 o 6 che sono messi a essere soli, al contrario. Quindi, come hai detto tu, no? Fai il cambio, loro vanno lì e quelli nostri vengono qua. No, devono girare, devono fare. E mi stava a mettere la complice, e se no mettevatene a sabotare ieri. Senza la bellezza di 140 km al giorno, beh, un lettore. Caspita, se devo mettere benzina, se devo mettere quella, anzi, meno male, e poi, da quelle centinaia che ho dato, non vedo bene veramente quanto. Boh, io che sappia, io pago una chilometraggio, che sappia io, pur non so come funziona lì da voi. Da loro funziona così, più chilometri fai e loro ti pagano in base al chilometraggio, capito? Anche qua, ma non applicano la tarifaci, solo lo lascio applicare la tarifaci, mi pare che sia in base alla cilindrata e mezzo c'è un importo. Hanno macchine piccole questi qua, io penso 40 centesimi, 45 centesimi, li prendono a chilometro, invece 20 centesimi cosa riescono a fare. Io ne fanno chilometri comunque. Ma la macchina secondo me la facciamo solo benzina o gasolio, facciamo pure uomo e ozio, quindi un incentivo deve essere completo, però non danno niente, capito? Non danno niente. E come me che mi dovessero dire lei va a Tentino con la macchina sua per andare anche in servizio, ma non ti picchiate se qui va a ginare la punta più in mano. Grazie, grazie. Troppo arrivato il trattatore, sì, lì. No, potevo così, ma mi aveva proposto una volta, non lavorava a Urbia, a scendere con la vettura mia, c'era un Alfa 33, allora, quell'epoca lì, era scritto, no, mi sono fatto una guida, no, oh, basta, per mamma, no, sono il detentivo della benzina, no. Domi, olio, non è così, il consumo, no, non è così, no, la macchina mia rimane ferma, e così è stato. Allora viaggiavamo con la macchina della prima collega, poi questa prima collega è stata per il e non lo so. Bucca e tocca di nuovo, capito? Adesso bisogna che lo smonti di abbassi la saldatorina, ma è appena ricca, se poi io non capisco per un millimetro cosa combina, beh. Sono maledetti, insomma.